E il messaggio è stato ieri espresso con un'enfasi e una forza indubbiamente maggiore. Ma questo... dice sanno tutti, cioè come dare per assodato che ci sia una parte della magistratura che fa politica è una cosa vecchia, nota. Mm. Se vuole che le parli con franchezza, direi che è una parte sempre più minoritaria e che sinceramente non si esprime nemmeno in chi oggi rappresenta l'Associazione Nazionale Magistrati, nel senso che io capisco l'imbarazzo del presidente Palamara, che indubbiamente ha rappresentato un punto anche di svolta nel senso del dialogo in questi anni. Non è il momento migliore, bisogna dire, perché il dialogo avanza. Non sono certamente, immagino, come i BR, come qualche... No, è un paragone improprio e direi quel manifesto lì è proprio, offensivo. Tutto sommato, per chi ha patito anche perdite, ho sentito poc'anzi nella vostra diretta nominare Moro, insomma, non è un paragone che ci può stare. Sì. Senta, Ministro, però vabbè, è vero, Berlusconi non è la prima volta certo che attacca i magistrati. Ieri però ha parlato di questo patto Fini magistrati, cioè un magistrato mi ha detto che Fini ha fatto un patto scellerato, cioè questa è un'accusa effettivamente anche più circostanziata, cioè non dovrebbe fare il nome di questo magistrato che gli ha rivelato questa cosa. Veda, io penso che questa curiosità sarà soddisfatta presto, cioè farà il nome, ma non dal presidente Berlusconi. E da chi? Da Fini? Come si dice? Ma Fini e vedrà. Questo presuppone che Fini abbia fatto davvero questo patto, ma se Fini dice io non ho fatto nessun patto... Il presidente Berlusconi si riferisce a una circostanza che per una serie di ragioni sarà molto presto pubblica, non mi faccia dire di più. No, mi dica di più, adesso mi ha incuriosito, Ministro. Penso che egli abbia appreso da una fonte diretta una cosa che questa fonte diretta ha intenzione di illustrare nel momento in cui separerà il suo ruolo dalla situazione nella quale ha preso queste cose. Cioè Berlusconi ha preso questo da una fonte diretta e questa fonte diretta tra poco si rivelerà. Penso che nella circostanza opportuna magari lo dirà, ma insomma è una ipotesi che posso formulare. Ecco, siamo in un campo nel quale le responsabilità sono individuali. Beh, formulare, mi sembra ben informato, Ministro. Certamente il Presidente del Consiglio non è persona che parli a vanvera e sicuramente questa sua irritazione verso il presidente Fini deve essere nata non da un pettegolezzo, perché altrimenti saremmo su un campo diverso, ma da circostanze che gli sono state dette e che lui ha spiegato. Quindi naturalmente chi gliele ha dette sceglierà la circostanza per dirlo a tutti gli italiani. In ogni caso questa persona, questa fonte è un magistrato, questo per bocca stessa del Presidente del Consiglio. Le mie fonti sono le stesse sue, per cui non... Però lei mi sembra un po' più informato, Ministro, di me. La mia impressione, e parlo di impressioni che traggo dalle stesse fonti che ha lei, è che naturalmente un Presidente del Consiglio, peraltro dell'esperienza di Silvio Berlusconi, non si sbilanciava a dire queste cose a fronte di un pettegolezzo, di una sciocchezza riferita. Naturalmente si tratta di una fonte autorevole, eminente, che probabilmente troverà anche l'occasione per dire liberamente queste cose quando magari deciderà di farlo in circostanze che ha già deciso. Ecco. Sì, certo, dice Berlusconi, non si arrischia in un terreno così minato se non succederà qualcosa dovrebbe succedere. Ma più che succedere, qualche dichiarazione, probabilmente insomma prepara il campo ad affermazioni che farà chi può farle, cioè chi questa ha affrontato queste cose. Questa io fonte. Poi cosa vuole che le dica? No, vabbè, qualcosa ci ha già detto. È un patto, diciamolo francamente, è un patto che secondo me ci sarà stato, ma per aggiungere la mia valutazione, è un patto tra poteri che non esistono, perché non c'è un Presidente della Camera che può dire io impedirò una legge, perché diciamolo francamente i percorsi delle leggi si impediscono da soli, perché sono anni che sulla giustizia non si fa una riforma vera. Ma allora che senso d'altro canto non c'è chi rappresenti i magistrati, perché i magistrati sono plurali, anzi si arrestano pure tra di loro, per cui immaginare che ci possa essere uno che dice io fermo Berlusconi o lo levo di mezzo, anche questo indubbiamente è una versione un po' romanzata, ma appunto, è ovvio. E quindi che senso avrebbe fare questo patto? Cioè, se il presidente della Camera non può fermare? Ma infatti io ritengo che il patto sia inagibile, nel senso che nessuno può impedire una riforma e nessuno può impedire che Berlusconi venga cacciato dalla politica per via di giustizia. Però lei dice... O nessuno può farlo, ecco, cioè il punto vero nei rapporti tra politica e giustizia è che si confrontano oggi, e purtroppo da molti anni, due impotenze, nel senso che la magistratura si fa definire da quella che è una sua minoranza estrema, e cioè alcuni che usano la toga per avere o ribalta o potere e visibilità politica. Altri, parlo dei politici, dovrebbero mettere mano a una riforma, ma ne parlano da 20 anni, e bisogna dare atto ad Alfano che è la prima volta che viene messo nero su bianco. Poi nel merito si potrà discutere se piaccia o meno, ma è uno sforzo che va apprezzato solo perché c'è stato. Senta, Ministro, le chiedo in conclusione, lei, visto che è anche avvocato e Berlusconi è difeso dalla grande... Per fortuna questa colpa non ce l'ho. No, non... Devo dirle che ho la colpa di aver fatto il suo mestiere, ma in cornice c'ho solo la laurea in legge. Ah, va bene, è laureato in legge. Avrebbe difficoltà a difendere Berlusconi se fosse avvocato per la vicenda Ruby? Perché lei da cattolico ha detto: io non ho mai provato alcun tipo di imbarazzo. Ma assolutamente no, per una ragione semplice, che la fede è innanzitutto un fatto individuale, e inoltre avremo tra qualche mese una straordinaria occasione, che è la visita del pontefice ad Assisi. Il pontefice ha voluto che in un momento così alto sul piano spirituale ed anche teologico, accanto ai cattolici ci siano anche non credenti. Questa è una stagione, in altre parole, in cui un nuovo umanesimo è fondato sull'incontro di chi crede e di chi non crede. Men che meno possiamo tornare a quando si pretendeva che il cattolico fosse specchio di virtù. Ma quindi anche quando il cardinale Tettamanzi dice ieri gli ingiusti non vogliono essere giudicati, anche il giornale stesso ha detto, pare si riferisse... Tettamanzi parlava della giustizia terrena ed esprimeva una posizione in quel caso politica, cioè era una predica, anche lì si può discuterne l'opportunità, era una predica che si esprimeva su fatti politici, perché per la Chiesa il giudizio è di Dio. Il giudizio terreno è una cosa che non riguarda le prediche, ha espresso un'opinione politica rispettabile come tutte. Intanto, Ministro, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Gianfranco Rotondi è il Ministro per l'attuazione del programma, e allora vedremo se questa fonte che avrebbe rivelato a Berlusconi di questo patto scellerato con Fini, come ci ha detto il Ministro Rotondi, potrebbe in qualche modo rivelare in un futuro, immagino, imminente, questa cornice di questo presunto patto. Ci fermiamo, parliamo di canone Rai nel nostro sondaggio, dopo la pubblicità. Parliamo del canone della Rai, la tassa più odiata dagli italiani e più evasa dagli italiani. Ora la proposta è quella di che Sky e Mediaset, insomma gli altri attori, diano l'elenco dei loro abbonati, li forniscano, in modo che la Guardia di Finanza sa chi ha un televisore. Siccome il canone, lo diciamo da mille volte, lo ripetiamo, è una tassa legata al mero possesso di un televisore, se uno ha Sky deve pagare il canone. Che ne pensate? È giusto o no? Votate su radio24.it oppure 800 24 00 24. Tra poco 24 mattino. Allora, parliamo di canone della Rai, la tassa più evasa dagli italiani, la tassa più odiata, qualcuno dice, dagli italiani. Lo dico per una volta, poi non lo dirò mai più, spero, anche se abbiamo detto già 500 volte a chi ci chiede: io c'ho la TV ma non è collegata all'antenna, quindi non la vedo, devo pagare il canone della Rai. Lo sai, il canone della Rai è legato al mero possesso di un apparecchio televisivo, e non solo televisivo, ma comunque, per semplificare, di una TV. Se uno la tiene spenta, se uno è rotta, il possesso, ce l'avete in casa, è una tassa legata al possesso della televisione, e quindi la risposta è sì, va pagato. Allora, di canone della Rai parliamo nel nostro sondaggio, perché abbiamo trovato una proposta anche in una relazione della Corte dei Conti che fa discutere. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. bianco o nero? Proposta che in pratica è questa. Per cercare di contrastare l'evasione si potrebbe, da parte delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo, non so, tanto per non fare i nomi, Sky, Mediaset Premium, di comunicare alla RAI o all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei loro utenti clienti. Cioè Sky e Mediaset suggeriscano, diano i loro elenchi di abbonati alla RAI o all'Agenzia delle Entrate, di modo che se uno ha Sky non può certo dire che, o Mediaset Premium, non può certo dire di non avere la televisione. Ne vogliamo parlare di canone RAI con Nino Rizzo Nervo, che è consigliere d'amministrazione della RAI, che ritroviamo. Buongiorno Rizzo Nervo. Buongiorno. Così come voglio salutare l'onorevole della Lega, Davide Caparini, anche lui è un ritorno. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei che siede nella commissione vigilanza RAI, che è capogruppo credo anche della Lega Nord in sì, vigilanza. E non paga il canone RAI. E non paga il canone RAI, insomma, e lo dice in maniera esplicita. E tra l'altro, Rizzo Nervo, vorrei partire da qui. Insomma, il fatto che Caparini lo dica in maniera esplicita ne fa una battaglia da anni, da sempre. Insomma, questa cosa insomma, ci limita un po' nel cominciare il dialogo. Uno dice: se il capogruppo della Lega Nord in Parlamento, della Commissione di Vigilanza Rai, non paga il canone, di cosa stiamo parlando? Si potrebbe dire, Rizzo Nervo. No, io spero che non abbia il televisore, perché se no l'entrata sarebbe obbligata. Come non ha il televisore? No, ce l'ha benissimo, ce ne ha più di uno, credo. Non paga il canone RAI, lo dice, se ne vanta e fa questa lotta fiscale da sempre, insomma, Rizzo Nervo. Questa... Ma guardi, io credo che siano legittime tutte le posizioni, anche di coloro come l'onorevole Caparini, che dicono: non riteniamo che il servizio pubblico radiotelevisivo debba essere finanziato con un canone, quindi finanziato dallo Stato. È una posizione legittima, come è legittima la posizione che vive in Italia invece, che è uguale a quella tra l'altro della Francia, del Regno Unito, della Germania, dell'Austria, della Svizzera, in tutti i paesi europei il servizio pubblico è coperto finanziariamente dal canone. Detto questo, l'onorevole Caparini è uno dei legislatori, uno degli autorevoli legislatori, e ci vuole una legge per non pagare il canone. Sino a quando questa legge non c'è, il canone va pagato. Senta, ci vuole chiarire questa cosa dei dati, perché intanto veniamo prima alla domanda che noi abbiamo fatto. La questione della Corte dei Conti che propone che Sky e Mediaset Premium, gli altri operatori del settore, insomma, forniscano i loro dati. Cos'è? È una proposta oppure è delazione vera e propria? Ma guardi, questo potrebbe essere un elemento per consentire di contenere l'evasione più alta che c'è in Europa rispetto al pagamento del canone, perché logicamente se uno conoscesse gli elenchi degli abbonati Sky o di Mediaset Premium, sicuramente quella fascia di utenti dovrebbe, prima di pagare quegli abbonamenti, pagare il canone. Però credo che non sarebbe sufficiente, perché ci troviamo di fronte ad credo rispetto ai dati di oggi a 9-10 milioni di famiglie. E negli altri paesi il canone si paga, dove non lo volevano pagare hanno trovato il mezzo per farlo pagare, qui da noi non riesco a capire perché non ci sia la volontà di farlo pagare. Tra l'altro, questa è una cosa che ho sempre detto, i canoni sono due: uno è il canone ordinario, che è quello relativo diciamo alle famiglie, dove vi è una sacca di evasione del 25-26%, che significa in soldoni 500-540 milioni di euro, e poi c'è il canone speciale, che è quello che devono pagare invece imprese, alberghi, enti pubblici. Ecco, il canone speciale credo che in Italia lo pagano soltanto gli esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, perché sono facilmente controllabili, mentre la sacca evasione, secondo l'associazione dei contribuenti, è di circa il 93-94%, e lì l'evasione è molto maggiore. 93%. Qui è facilissimo farlo pagare, qui è facilissimo, perché si tratta tra l'altro di un canone che è totalmente deducibile dagli studi professionali, dalle imprese, e sarebbe sufficiente che durante gli accertamenti fiscali venisse richiesta la prova del pagamento del canone. Ora, rispetto a questo mondo dove non c'è bisogno della bolletta elettrica, non c'è bisogno di altri accorgimenti, non c'è bisogno delle liste Sky o Mediaset, se non lo si fa pagare, perché non lo si vuole far pagare probabilmente. Sì, da anni si sente per esempio quella della proposta anche del neo ministro Romani di metterlo allegato alla bolletta elettrica, ma anche quello se ne parla da anni e poi non si fa. Onorevole Caparini, allora, detto che lei ci ha già spiegato il perché combatte da anni, del perché non paga il canone, non so, cioè cosa fa? Lei esulta se sente che ci sono per esempio 12.000 persone che ogni anno scrivono alla Guardia di Finanza per chiedere suggellatemi l'apparecchio TV, che è il sistema, tanto la Guardia di Finanza non verrà mai perché è oberata da altre cose e quindi è un modo, io ho scritto la mia lettera e così non pago più il canone. Cioè lei è contento quando sente gente che non paga il canone o che cosa? No, io mi incazzo perché siamo nel paese delle banane, cioè questo è il concetto, nel senso che utilizziamo uno strumento che è stato pensato ancora quando non esisteva il televisore per aumentare la pressione fiscale, questo è il punto fondamentale. Adesso io non vorrei anticipare il programma di Giannino, ma siamo veramente a livelli di Stato di Polizia e soprattutto siamo a livelli di uno Stato che continua a drenare risorse senza poi bene dire. Lei si riferisce al decreto regio del 38, che è quello sulla base del quale sulla si chiede del quale quando non c'era la TV peraltro quelle 12.000 persone a cui lei faceva riferimento, correttamente utilizzando una prerogativa che la legge gli concede, chiedono allo Stato di suggellare il proprio televisore, in attesa del quale sono con il televisore in casa. Però siccome la Corte dei Conti tra i suggerimenti dice cancellate, cari legislatori, e quindi voi in Parlamento, questo decreto legge del 38, come ha detto Rizzo Nervo, finché c'è una legge va rispettata, sì, almeno. Infatti queste 12.000 persone la rispettano, è lo Stato che non fa ancora una volta quello che dovrebbe fare. Perché non gli conviene, allo Stato non conviene suggellare un apparecchio televisivo perché i costi sono talmente alti rispetto ai benefici che lascia la situazione così com'è. Comunque sta parlando con l'unico deputato che in 4 legislature ha presentato circa 8 disegni di legge, progetti di legge sulla materia. Cioè lei oltre a non pagare il canone cerca di cambiare anche la situazione. No, semmai non pago il canone per cambiare la situazione, non è un problema di causa-effetto. Vabbè, sa, ma ci sono molti che magari tentano di cambiare la situazione e nel frattempo rispettano la legge, cioè pagando il canone. Però lei ed io non saremo qui questa mattina a parlare di questo argomento. E glielo dico non solo in questo momento, che magari questa paradossale proposta dalla Corte dei Conti, ma anche in altri momenti in cui cade nell'oblio questo problema, che invece è un problema che tocca tante famiglie. Io penso solo a quelle con un reddito basso, che sono comunque costrette a versare un obolo di 109 euro per pagare quella schifezza che vediamo. Questa è una valutazione tassa in rapporto alla qualità dei programmi. Intanto io voglio salutare anche, vi sta ascoltando, il vice sindaco di Collobiano in provincia di Vercelli, si tratta di Patrizia Vaccino, che saluto. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Perché Collobiano è diventata famosa, insomma è surta agli onori della cronaca, perché è un paese in provincia di Vercelli dove quante famiglie siete? Credo 37 o più o meno? 37, sì. 37. Tutte pagate il canone, 100%. Sì, sì, su 37 famiglie tutte 37 hanno pagato il canone. Nel senso, anche perché magari se uno non lo paga, viene una famiglia non la paga al bar poi di Collobiano, no. Poi facilmente no, senta, ma voi siete considerati, anche il Sole 24 Ore ne aveva parlato, del comune virtuoso per quel che riguarda il pagamento del canone, siete, cioè come mai pagate, che dovrebbe essere una cosa ovvia per tutti, però ci sono sacche di evasione altissime, da voi questo problema se l'avete scoperto così, oppure di essere virtuosi, oppure non vi siete mai posto il problema? Ma sinceramente l'abbiamo scoperto per caso di essere così virtuosi, anzi più virtuose a quanto pare. Paghiamo tutti il canone perché, cioè, secondo me, come senso di dovere civico, è un dovere che cioè, dice, non si dovrebbe neanche, come paghiamo le altre tasse. No, capisco, io dice, lei potrebbe dire anche stupida la domanda, fare perché pagate il canone, però vede che in realtà è un dibattito che c'è, insomma. Sì, certo, anche se a volte magari ci si lamenta che i programmi non sono il massimo, eccetera, però per senso civico noi, io e i miei concittadini, paghiamo questa tassa come paghiamo le altre tasse. Insomma, l'avete scoperto anche un po' così, per caso. Diciamo dagli articoli di giornale. Stia con noi, vice sindaco, devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire nel dibattito anche qualche ascoltatore, perché ovviamente il tema è di quelli caldi che suscita anche il dibattito tra di voi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Oh, non l'ho colpevolmente detto finora, ma il 58% dei nostri ascoltatori risponde sì al sondaggio, cioè combattere l'evasione del canone Rai anche con la lista degli abbonati a Sky, a Mediaset e agli altri operatori, in modo da dire avete la TV e dovete pagare. Voglio sentire che ne pensa Gianfranco da Termoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Allora, il mio intervento molto semplice è in due parti. La prima parte è ovviamente quella che ha appena detto lei, sono uno di quelli compresi nel 58%, perché se oggi la legge è quella e quindi le leggi vanno rispettate da buon italiano, per cui la tassa va pagata. Sì. Invece la seconda parte è relativa al fatto che non trovo giusto che debba essere dichiarata come tassa di possesso. Io pago la tassa per avere un servizio, così come spero di pagare le tasse d'Italia per ottenere dei servizi dai nostri governanti. E quindi se è un servizio è giusto che venga pagato, così come viene pagato il servizio offerto da Sky piuttosto che da Mediaset. Okay. Quindi non le piace l'idea del del mero possesso della TV? Assolutamente. Ma d'altronde è stato scritto nel 1938, quindi sa. Grazie Gianfranco, voglio andare a Napoli da Gennaro, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io volevo apportare il mio modesto contributo, io ho l'abbonamento Mediaset e ricordo di aver firmato il consenso alla privacy soltanto per avere il materiale pubblicitario, quindi io non penso che lo Stato possa prendere queste banche dati, perché non c'è la liberatoria da parte dei cittadini. Sì, quindi lei dice io ho fatto il contratto con Mediaset, non vedo perché il mio nominativo debba arrivare all'Agenzia delle Entrate o alla RAI, ecco. No, in effetti io ho firmato il consenso alla privacy solo esclusivamente per fini pubblicitari, sì, quindi loro sì, non possono dare i miei dati per altri fini, come in questo caso l'accertamento fiscale. Va bene, è stato chiarissimo. Io vorrei chiedere a Nino Rizzo Nervo, consigliere di amministrazione RAI, se è giusto il discorso che fa l'onorevole Caparini di legare anche la tassa, il canone RAI, con la qualità del servizio che poi viene proposto dalla TV di Stato. Ma guarda, intanto rispetto ad un'altra cosa diceva l'onorevole Caparini, se il canone lo pagassero tutti si potrebbero esentare alcune fasce sociali dal pagamento, alcune già lo sono, ma aumentare l'esenzione delle fasce sociali più deboli economicamente al pagamento del canone, quindi pagare tutti affinché poi alcuni possano pagare anche. Lei dice, perché è una vecchia teoria che viene contestata dai liberisti alla Giannino, così almeno anticipo questo, perché dice no, se lo Stato ha più entrate se le tiene, non è che abbassa le tasse. Detto questo, ma guardi, legato alla qualità del servizio, il problema è capire cosa intendiamo per qualità del servizio. Io credo, io sono uno molto critico di solito anche con la stessa RAI, ma credo che in generale la qualità del servizio sia una qualità, non vorrei dire adeguata, ma conoscendo anche le altre televisioni pubbliche, in linea con le altre televisioni pubbliche. Poi è logico che qualcosa a me può piacere ad altri non può piacere, ma sulla qualità del servizio avremo sempre dei giudizi positivi e delle forze critiche. L'importante è la varietà, insomma. L'ultimo contratto di servizio, non questo è stato firmato adesso, ma quello precedente, ha introdotto per la prima volta un sistema di misurazione della qualità che si chiama Quali, e quello è il sistema a cui noi dobbiamo rifarci, e devo dire che i risultati dei primi rapporti che sono in relazione alla qualità percepita, appunto, ma anche al valore pubblico percepito da questo servizio, non v'è dubbio che ci sono alcune trasmissioni che vengono ritenute insufficienti, ma il voto complessivo, almeno sino ad oggi, è positivo. Io, onorevole Caparini, ha sentito, la metto così, la traduco così l'accusa di Rizzo Nervo, col fatto che lei non paga il canone RAI, impedisce di abbassare magari a qualche fascia debole il canone, che pagano una quota alta anche perché lei non lo paga. Sarebbe sufficiente diminuire lo stipendio dei dirigenti RAI per poter... Vabbè, respinge così l'accusa. La RAI ha cinque volte il tasso di costo del lavoro rispetto al competitore privato, e questo lo dice lunga. Ci sono quattro persone in più, e questo già dà l'idea di quanto la RAI sia un carrozzone che purtroppo la classe politica, per cui... devo essere annoverato anche io, ha contribuito in questi anni ad aumentare la dismisura. Posso tornare sulla Corte dei Conti, perché c'è un dato che non è bazzato agli onori delle cronache, ma è fondamentale. La RAI è già stata condannata per aver utilizzato i dati di Sky. Sì. Ed è avvenuto proprio grazie al mio esposto ancora nel... Ah sì? Cioè, come hanno fatto? Sono entrati, anch'esti? Loro avevano acquistato da un fornitore di servizi di Sky questi pacchetti di indirizzi. Allora che ovviamente chi aveva sottoscritto l'abbonamento a Sky e non aveva il canone RAI si trovò quella lettera della RAI, anzi il sollecito a pagamento, il sospettito fece la denuncia che noi sosteniamo. È bella questa cosa, onorevole Caprini, cioè esatto. Insospettito fece la denuncia, ma lui di fatto è un evasore fiscale, però insospettito denuncia però, questo sgarbo. Chi la sostiene in particolare pagava il canone RAI per un'abitazione sulla seconda abitazione si trovò in modo del tutto inopportuno, perché sarebbe stato un collegamento, ma un collegamento che la RAI non poteva avere, in quanto di solito la RAI, questo lo devono sapere anche i radioascoltatori, dispone di tutte le banche dati dei comuni, quindi dispone anche delle banche dati degli allacciamenti nuovi, delle nuove abitazioni, insomma ha una banca dati enorme. A tutti i dati dell'Agenzia delle Finanze, quindi è una banca dati notevole. Qui si tratta di andare oltre, cioè invadere la privacy dei cittadini per reperire informazioni. Insomma, la delazione, invadere la privacy, come aveva detto l'ascoltatore. Io vorrei, mi lasci però un attimo andare ancora a Collobiano, dove il vice sindaco, Patrizia Vaccino, ma ho letto bene quando ho letto che col passaggio al digitale voi che siete virtuosi manco riuscite a vedere benissimo adesso i canali della RAI? Ma no, io devo dire che li vedo bene. Li vede bene? Sì. Ho letto male, allora no, perché forse il sindaco diceva adesso col passaggio al digitale abbiamo anche problemi nonostante ciò. No, sono... io problemi non ne ho, vedo bene tutti i canali. Vede bene, insomma, quindi a maggior ragione pagate il canone con convinzione, ecco, in questo paese Collobiano, lo voglio ricordare a chi ce lo chiede, in provincia di Vercelli, 37 famiglie, poi quanti abitanti siete? Circa 120 abitanti, 120 quindi abitanti. I numeri sono molto piccoli, quindi... incidono poco. Questo sì. Va bene, io ho concluso qui. Devo chiedere a Rizzo Nervo, io le avevo fatto una domanda, lei non si ricordava, ma due o tre anni fa, ma la vicenda è sempre ferma così. C'è un sito che a me inquieta, che è quello contrattidiconsulenzarai.it, credo, una roba del genere, www.contrattidiconsulenzarai.it, che da due anni o tre anni o quattro anni, credo, dal 2007 è fermo lì, e in cui c'è scritto aggiornamenti in corso, cioè per la legge del 2007 bisogna dare tutto l'elenco di tutte le consulenze RAI. Io ogni tanto vado a vedere, ma è sempre fermo, è sempre lavoro in corso da quattro anni. Come mai, Rizzo Nervo, questa vicenda? Vogliamo scoprire quanto pagano tutti in consulenza? Allora la tranquillizzo. Allora mi informai quando le posso scrivere, mi dissero che doveva essere ancora fatto il regolamento. Ora, al di là se è stato fatto o meno, siccome è previsto dal nuovo contratto di servizio che nel sito web siano pubblicati stipendi, consulenze, perfetto, e costo di trasmissioni, finalmente ce l'avremo. Finalmente il tempo tecnico per, so che si stanno lavorando, finalmente ci saranno. Ma mi faccia dire una cosa, l'onorevole Caperini, io capisco che il suo, come dire, la sua critica alla RAI è totale, ma anche lì probabilmente ci sono degli sprechi, probabilmente bisogna contenere dei costi, ma stiamo attenti, perché poi è un'azienda che ha tanti professionisti e poi sa, si dice, la BBC c'è il doppio dei nostri dipendenti, il servizio pubblico tedesco pure, quindi un po' di serietà quando si parla di queste cose. No, no, ma perché? Ma non attacchiamo, non è una critica, non è un attacco all'azienda, almeno per quel che mi riguarda. Intanto grazie a Nino Rizzonevo, consigliere di amministrazione RAI, onorevole Davide Caparini della Lega e il vice sindaco di Collobiano Patrizia Vaccino. Che dire, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia con la sua penna d'alpino, diamo la linea a Oscar Giannino e ci troviamo domattina alle 7:20.